Salva Danaio di Deborah Rosciani. Amici di Salva Danaio, buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani e ben trovati. Oggi ci occupiamo di un tema del tutto particolare, di sicuro inedito rispetto al taglio tradizionale consueto della nostra trasmissione. Intanto perché, visto che è estate e siamo tutti molto stanchi, alleggeriamo il programma con qualcosa di diverso. Non è però un tema completamente frivolo, perché comunque riguarda il lavoro, la professione di qualcuno. Per qualcun altro si tratta di una grande passione che però si trasforma in fonte di guadagno, di reddito e che pertanto va tassata. Parliamo dell'attività sportiva di tante persone. Quella che faccio io in palestra chiaramente non mi fa guadagnare nulla, non c'entra niente con il tema di stamattina, anzi ci fa spendere, mi fa spendere, basta. Ma a parte gli scherzi, oggi Salva Danaio si occupa di sport in vista delle Olimpiadi e ci occupiamo di un argomento che solo apparentemente non è affine alla nostra trasmissione, invece sempre di denaro si parla. Allora, vi ricordate 4 anni fa le Olimpiadi di Pechino, tema sollevato da campioni pluripremiati e pluridecorati come Valentina Vezzali nella scherma, che aveva chiesto al CONI di rivedere i premi, riconoscendone magari di più alti a seconda del numero delle medaglie portate a casa, e lei aveva un palmarès molto ricco in quella circostanza, lo ha avuto sempre per la verità, o anche le appunto questioni sollevate dal tiratore di Nettuno Francesco Daniello, che aveva incoraggiato, anzi forse l'avevano portata avanti insieme questa iniziativa, l'iniziativa appunto della Vezzali. Premi più alti avevano chiesto, o comunque una tassazione più accettabile, più contenuta. La tassazione dei premi sportivi, dunque, a parte le medaglie olimpiche, potremmo però scendere anche a livelli più vicini a noi comuni mortali. Cosa succede per chi pratica sport a livello dilettantistico e riceve comunque premi o una qualunque forma di remunerazione? Allora, oggi a Salva Danaio parliamo di questo, ci prendiamo una pausa dagli effetti della crisi e ci vogliamo anche un pochino divertire. Lo faremo sicuramente con il nostro Dario Ricci, che oltre ad essere uno dei nostri più bravi e meritevoli appunto conduttori dei nostri programmi, sarà anche l'inviato a Londra per le Olimpiadi. Dario, buongiorno, sei pronto a partire? Sì, pronto. Assolutamente, buongiorno a tutti. Troppo buona Deborah, caffè pagato, ma no, ci mancherebbe altro. Cosa non farei per un caffè, appunto, per scroccare un caffè da un collega? Detto questo, appunto, lo penso davvero. E tra l'altro proprio ho chiesto ovviamente aiuto a Dario anche un po' per parlare di questi argomenti, perché io invece ho tutt'altre competenze. E poi naturalmente abbiamo chiesto anche la consulenza ad un consulente tributario, uno dei nostri amici più frequenti di Salva Danaio, Nicola Forte, appunto esperto di tema fiscale per il Sole 24 Ore, ma non solo. Nicola, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ben trovato, anzi, se proprio devo essere sincera, il primo a propormi una trasmissione di questo tema, su questo tema, è stato proprio Nicola, che in passato ha scritto diffusamente su questi argomenti, per cui davvero conosce ogni aspetto legato alle questioni fiscali, per cui stamattina cercheremo di affrontare questi aspetti anche a beneficio dei nostri ascoltatori, che magari, a prescindere dalle curiosità che hanno intorno alle performance degli sportivi e alla tassazione dei redditi, non sono tutti calciatori. Ci sono anche situazioni ben differenziate, come sapete, nel panorama sportivo italiano. Magari ci si interroga anche a livelli minori quale deve essere il corretto trattamento fiscale. Magari qualcuno pratica sport appunto a livello dilettantistico, lo fa accanto ad un altro tipo di lavoro, ma magari ancora non ha ben disciplinato dal punto di vista fiscale la sua situazione. Allora noi stamattina, se ce la faremo, cercheremo di darvi delle indicazioni in merito a questo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per le vostre curiosità. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e potete andare anche ad animare il dibattito su Facebook. Già alcuni ascoltatori lo hanno fatto, presentando la nostra trasmissione questa mattina. I commenti che abbiamo ricevuto sono stati seguenti, ve ne leggo già un paio. Intanto potete trovare la trasmissione sul profilo salvadanaio-radio24. Andrea scrive: certo che sì, certo che è giusto tassare le medaglie dei campioni azzurri, hanno già una tassazione, loro chiedono di rivederla, anche perché sono tutti dipendenti dello Stato italiano, tutti in polizia, finanza, forestale, eccetera, e quindi devono pagare. E tra l'altro un altro ascoltatore chiede: caro Dario, ascolterò come sempre Salva Danaio perché sono molto curiosa di sapere sapere cosa pensa Dario Ricci sui capricci dei campioni, poi magari ci occuperemo anche di questo. Allora, sapete che facciamo oggi? La borsa la lasciamo da parte, anzi ve la do solo in due secondi. Milano perde lo 0,4%, sono positive invece le altre piazze, situazione contrastata in Europa in una giornata di difficoltà, con lo spread che è ancora alto, leggermente al di sotto dei 480 punti base, ma non si schioda da questi livelli, e il mercato obbligazionario è sempre in tensione. Su Milano i due migliori titoli, Mediaset più 4,41, Telecom più 1,71, i peggiori Snam meno 3,63, Monte dei Paschi meno 3,24%. Allora, oggi anche noi parleremo di Olimpiadi, andremo a curiosare sulla tassazione dei premi sportivi, dei premi ricevuti dai campioni olimpionici, ma sentite un po' anche che cosa abbiamo scoperto relativamente al trattamento che gli atleti ricevono negli altri paesi d'Europa. Sentiamo questa bellissima scheda, questo bellissimo lavoro preparato da Laura Faggin. Mancano meno di 10 giorni all'apertura della 30ª edizione dei Giochi Olimpici e a Londra fervono i preparativi per la cerimonia inaugurale. Il bel paese, in attesa di schierare i propri atleti, scalda gli animi dei tifosi con l'argomento che meglio polarizza l'opinione pubblica italiana: le tasse. Questa volta non si tratta delle fatture non emesse dal ristorante di Clarence Seedorf o dell'ennesimo episodio della telenovela tra Maradona e l'Agenzia delle Entrate. Il dibattito riguarda la tassazione dei premi concessi agli atleti che conquistano il podio. Il CONI, l'ente pubblico che stabilisce le regole e che finanzia i premi, ha confermato per il 2012 le somme erogate 4 anni fa per le Olimpiadi di Pechino: 140.000 euro per l'oro, 75.000 per l'argento e 50.000 per il bronzo. La tassazione applicata è quella ordinaria, ma in altri paesi sono state scelte soluzioni differenti. Vediamone assieme alcune. I padroni di casa scelgono la via della sobrietà e del tax free. La Gran Bretagna non erogherà alcun premio in denaro ai propri campioni che conquisteranno una medaglia. Per loro la gloria di entrare nella storia è un versamento di 12.000 euro come riconoscimento del diritto d'immagine concesso alla Royal Mail, che entro le 24 ore dalla vittoria stamperà un francobollo celebrativo con l'effigie dell'atleta vincitore. Parsimoniosi, seppur non ai livelli inglesi, anche i comitati olimpici di Germania e Stati Uniti, che nella precedente edizione hanno erogato somme rispettivamente per 15.000 e 19.000 euro. Decisamente più munifica la Spagna, che nonostante i sacrifici decisi dal premier Rajoy, premierà le proprie medaglie d'oro individuali con 94.000 euro, gli argenti con 48.000 e i bronzi con 30.000 euro. Niente tasse anche per la Polonia, che nel 2008 ha ricompensato il primo classificato con 55.000 euro e un'automobile di media cilindrata del valore di 15.000 euro, mentre al secondo e al terzo classificati sono andati premi per 41.700 e 27.800 euro. Comprensivo l'atteggiamento del Comitato Olimpico Slovacco, che ha imposto un prelievo fiscale al 19% sui riconoscimenti erogati, 30.000 euro all'oro, 18.000 all'argento e 12.000 al bronzo, ma ha distribuito premi fino all'ottavo posto classificato. L'Australia non chiede tasse, ma premia solo gli ori. Ai suoi campioni sono andati nel 2008 compensi per 11.750 euro, aumentati quest'anno a 15.000, e i diritti di immagine per il francobollo celebrativo. Curiosa la scelta della Bielorussia, che nella passata edizione ha aggiunto ai premi in denaro, 80.000 euro all'oro, 40.000 all'argento e 25.000 al bronzo, anche una golosa ricompensa in natura, garantendo ai propri campioni generose scorte di salsicce. Insomma, ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori e alcuni paesi hanno delle iniziative davvero originali. L'ultima, dalla Bielorussia, ha suscitato davvero una grande curiosità, però insomma avete sentito, la situazione è estremamente eterogenea. Sicuramente Dario Ricci, cominciamo subito con il commentare che poi, a prescindere dalla tassazione molto rigida e molto alta, i premi per gli italiani sono in ogni caso i più alti. Sì, assolutamente, siamo al top di questa classifica, e diciamo anche in maniera sorprendente, e poi chiaramente l'altro elemento che sicuramente andremo a sviluppare in quest'ora, Debora, è anche quello del fatto che i premi invece per gli atleti paralimpici sono esattamente la metà, no? Abbiamo ricevuto in questi giorni anche dai nostri ascoltatori diverse mail che ci chiedevano il perché, anche con una certa indignazione andremo a affrontare anche questo tema. Sicuramente l'essere primi in questa classifica dovrebbe un po' mettere a tacere anche i mugugni sulla tassazione, e va sottolineato anche che chiaramente la politica in generale tende ad essere molto indulgente sul tema. Proprio pochi giorni fa il presidente francese Hollande, come sappiamo c'è questo dibattito sulla supertassa, l'aliquota al 75% sui redditi superiori al milione di euro in Francia, che mette un po' a rischio anche gli ingaggi dei vari Ibrahimovic eccetera eccetera, ha promesso mano leggera sotto il profilo fiscale ai medagliati francesi a Londra 2012. Insomma, diciamo, poi la bella foto col medagliato di turno e il politico non se la nega di certo, e quindi è anche disposto a farlo sconto. Ecco, infatti. Ascolta Dario, ci vuoi ricordare invece tu, visto che probabilmente lo avrai raccontato anche in lungo e in largo in quel frangente nel 2008 con le Olimpiadi di Pechino, come venne sollevata la polemica sulla tassazione dei premi riconosciuti in queste circostanze? Perché peraltro poi, a prescindere dalle performance realizzate dai nostri campioni sempre straordinarie, in realtà proprio in quel momento tutti i giornalisti che erano inviati a Pechino dovettero dirottare l'attenzione e gran parte della mole del loro lavoro proprio su questo argomento. Fu il primo Francesco Daniello, Valentina Vezzali, appunto, a sollevare la polemica. No, il primo fu proprio Francesco Daniello, argento nel double trap, nel tiro al volo, che ricordo, perché ebbe la fortuna di essere presente a quella gara, che in conferenza stampa, ad una domanda precisa, lui aveva già in qualche modo evidenziato questo tema nei giorni precedenti. Medaglia al collo, chiaramente il tema tornava di stringente attualità, e proprio nella conferenza post gara sollevò questo problema, sottolineando come riteneva sostanzialmente ingiusta la tassazione del premio che avrebbe ricevuto. Poi chiaramente tutti i grandi campioni si sono accodati. Ora va sottolineato che lo stesso Daniello, che è arrivato due giorni fa a Londra, ha cominciato a testare il poligono di tiro e anche le infrastrutture del villaggio olimpico, ha detto che la mensa non è un granché, quindi diciamo che tutto sommato un tipino che non è facile accontentare. Devo anche dire che mi sono presa questa mattina un pezzo, una lunga inchiesta apparsa sul magazine del Corriere 7 settimana scorsa, uno speciale Olimpiadi in cui si racconta che per la verità le spese sono state davvero ridotte al minimo per l'organizzazione di questa kermesse quest'anno, uso della carta abolito, gadget per gli ospiti spariti, quindi saranno delle Olimpiadi all'insegna del risparmio, dovrei mangiare dei gran panini, caro Dario, quindi oltre che lavorare moltissimo per seguire, quantomeno il fuso orario ti è più favorevole rispetto a Pechino. Allora, volevo salutare Nicola Forte e poi andremo a tutti gli altri aspetti, perché quello che c'è da dire, Dario, è che nonostante la polemica sollevata nel 2008, mi pare che non si sia mosso nulla in ogni caso. Quest'anno gli atleti potranno portare a casa tutti gli ori che vorranno, la tassazione sarà rimasta la stessa. Sì, la tassazione, cioè tutti i premi sono all'ordo e quindi diciamo che... No, nel senso che tutto quello che è successo non ha sortito alcun effetto. No, mi pare di ricordare. Ecco, vado a memoria. C'è stata una proposta di legge, credo, del PDL presentata in quella subito dopo, oppure appunto in quel periodo. Adesso ti ricordo anche chi fu il deputato che la presentò, centrodestra, Luciano Rossi, presidente della Federazione Tiro, tra l'altro. Sì, ecco, esattamente. E però, insomma, mi pare che non sia accaduto nulla. No, infatti. Anche in questo caso diciamo è anche cambiata l'atmosfera politica, e insomma vediamo chi sarà l'intrepido che medaglia al collo risolverà il problema. Bene, allora saremo curiosi anche di seguire qualora succedesse tutto questo. Nicola Forte, allora, noi abbiamo ricordato qual è il premio che viene assegnato a seconda della medaglia che si riceve: 140.000 euro per la medaglia d'oro, 75.000 euro per l'argento, 40.000 euro per il bronzo. Ci sembrano sicuramente delle cifre molto importanti, e devo dire che io mi ero anche un po' approcciata all'argomento in maniera superficiale, con il solito atteggiamento di chi, insomma, cosa vogliono, d'altronde portare a casa per una medaglia 140.000 euro, per quanto se sono poi chiaramente tassate possano arrivare a 80.000, 70.000 e quello che vogliamo, non è sicuramente una cifra da buttare. Detto questo, invece, leggendo i commenti anche dei giornalisti dalla rassegna stampa di quel periodo, ho trovato molto sostegno e molto appoggio alla protesta degli atleti, perché effettivamente magari questi 140.000 euro che poi diventano 80.000 sono anche il premio per un lavoro molto duro che gli atleti fanno per arrivare a questi livelli, e magari può anche essere l'unico riconoscimento di un'intera carriera. Non sono tutti Valentina Vezzali o altri campioni abituati ad essere ripetutamente premiati, per cui bisogna anche dare il giusto peso alle cose. Ritengo, detto questo, forte. Allora, qual è nello specifico la tassazione che grava su questi riconoscimenti? In realtà la tassazione di premi corrisposti a sportivi dilettanti è in effetti più morbida, nel senso che, sia pure limitatamente a certe cifre, certi importi, non ho cumulo con gli altri redditi. In buona sostanza, quando una società, un'associazione sportiva dilettantistica corrisponde un premio in denaro, i primi 7.500 euro non vengono tassati. Qui bisogna un attimo ricordare la nozione di società sportiva dilettantistica, perché nel testo unico delle imposte sui redditi ho un'espressa norma che mi riconosce, attribuisce la nozione, la qualifica di società sportiva dilettantistica anche al CONI, alle federazioni e agli enti di promozione. Questo quindi in sostanza vuol significare che se una federazione corrisponde un premio in denaro a un atleta dilettantistico, e ricordo che e solo poche federazioni hanno istituito il settore professionistico, la scherma è sicuramente una disciplina dilettantistica, il tiravolo pure, il tennis tavolo pure, via discorrendo, per i premi in denaro fino a 7.500 euro una detassazione completa. Oltre i 7.500 fino a 28.158,8 stiamo parlando euro. Sempre del premio, non di un reddito percepito da questi atleti. Stiamo parlando di premi, extra reddito. Okay. Assolutamente, stiamo parlando di premi, di compensi, anche perché poi molti atleti che partecipano alle Olimpiadi appartengono a gruppi sportivi militari, e in quel caso l'atleta percepisce un reddito di lavoro dipendente. E infatti ricordiamo che Valentina Vezzali, per esempio, appartiene al corpo di polizia, adesso non mi ricordo se Dario appartiene a qualche altro, come dire, a qualche altra categoria militare? Oddio, domanda sorpresa. Vabbè, ci documentiamo nel frattempo, io non me lo ricordo. Diciamo, buona parte soprattutto delle discipline minori, o come appunto il tiro, che inevitabilmente ha attività anche con l'attività militare. Antonio Rossi, che cos'è, un poliziotto o un finanziere? È un finanziere. Esatto, ci hanno anche scherzato, per la verità, negli articoli che ho trovato appunto relativi al 2008, dicevano, parlava proprio lui che, essendo appunto un finanziere, le tasse dovrebbero essere il suo pane quotidiano. Vabbè, comunque, Nicola Forte, l'ho interrotta. Nessun problema. Allora dicevo, oltre 7.500 fino ai 28.158 euro, i 40 milioni delle vecchie lire, abbiamo una ritenuta a titolo d'imposta corrispondente al primo scaglione di reddito, 23%. Questo vuol dire che fino a questo importo il premio corrisposto dalla federazione non si cumula rispetto con gli altri redditi posseduti, e quindi i redditi posseduti ad esempio da un atleta militare. Quando andiamo oltre questa cifra, quindi 28.158 euro, ho una normale ritenuta a titolo d'acconto del 23%, vuol dire che oltre questo importo il premio in denaro viene sommato agli altri redditi, ovviamente si applica l'IRPEF in misura progressiva, nel senso o i singoli scaglioni, e quindi viene tassata, i premi vengono tassati secondo i criteri ordinari. Quindi in realtà ho già una tassazione, diciamo, agevolata, solo che i premi superano appunto questi importi minimi, già 140.000 euro vanno oltre queste cifre, poi possiamo immaginare anche altri premi percepiti dalla federazione nel corso dell'anno, e quindi la tassazione risulta migliore ma comunque elevata. Oliviero Bea definì tutta questa storia le pecuniadi e ci fa sorridere anche effettivamente il modo con cui commentò un po' tutta la storia, ma devo dire che anche Bea, che è uno dei nostri più noti giornalisti sportivi, anche se è un commentatore anche su tanti altri argomenti, prese le difese in maniera molto forte appunto degli atleti che sollevarono tale questione, soprattutto mettendoli a confronto con il mondo dei calciatori, che lo stesso, tra l'altro, ricordando i mondiali vinti in Germania, riuscirono anche a ricevere un premio al netto delle tasse, contrariamente agli accordi di partenza, gli accordi appunto presi prima della partenza per quei mondiali. Allora, noi ci fermiamo adesso perché abbiamo il nostro primo stop, la nostra prima pausa. 800 24 00 24, il numero verde per, se volete darci e fornirci il vostro commento sul tema di oggi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi, e chiaramente sono anche molti messaggi che esprimono un po' di disappunto commentando la questione, e alcuni ascoltatori ci chiedono per esempio i giocatori di poker come vengono trattati dal punto di vista fiscale, ce lo chiede Giovanni, e poi volevo leggere anche un altro commento, un ascoltatore chiede: ma chi vince l'oro non riceve poi anche un vitalizio? Andiamo che controlliamo questo ritorno della Svezia e dell'Ungheria, c'è ancora luce, ci sono 250 metri per la gloria, per la conquista della medaglia d'oro per Rossi e Beniamino. Bonomi con gli ultimi 150 metri, l'Italia è partita fortissimo, deve guardarsi all'esterno da parte dell'Ungheria e della Svezia. 116, è un po' pesante il colpo azzurro, ma siamo ancora in testa, è la Svezia che ci fa una grande paura, l'Ungheria che attacca la Svezia, precipita verso il traguardo con Rossi che adesso eleva ancora il numero dei colpi, 116, 118, Ale Antonio, Ale che sei il più forte del mondo, Ale Beniamino, ancora andiamo a vincere, andiamo a vincere ancora, e questo è il campo 2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia, vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni. Incredibile la vittoria di questa imbarcazione, un turbo diesel. Non vi siete sbagliati, siete su Salva Danaio anche questa mattina, che però si cimenta su un tema che non c'è familiare, però abbiamo voluto un po' alleggerire anche noi il clima guardando alle Olimpiadi di Londra che arriveranno a breve, e abbiamo deciso di parlarne perché abbiamo ripescato una storia delle Olimpiadi di Pechino, quando gli atleti italiani sollevarono una polemica che concentrò grande attenzione per i giornalisti anche sportivi che erano lì, compreso il nostro Dario Ricci, cioè il fatto di rivedere o i premi conferiti loro per le medaglie ricevute, o comunque o la mole del premio o l'entità della tassazione applicata a questo. Non è cambiato molto da allora, ma noi abbiamo ripercorso appunto questa storia anche per capire che differenza c'è tra una disciplina sportiva professionale e quella dilettantistica, per chi si cimenta in queste attività, che tipo di tassazione ha il premio che riceve, la remunerazione che riceve, che poi sono due questioni diverse. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, oppure scriveteci al 349 238 6666. Vi ho già presentato i nostri ospiti di stamattina, c'è il nostro Dario Ricci che parte presto per Londra, e un nostro consulente tributario Nicola Forte. Tra l'altro, Dario Ricci, sai che stamattina continuo ad interrogarti per quel contributo che abbiamo appena mandato in onda, il premio lì se lo meritava come sempre Galeazzi, anche se abbiamo scelto un contributo diverso rispetto a quelli che magari gli italiani ricordano di più, che sono i commenti legati alle prestazioni dei fratelli Abbagnale, no? Sì, però d'altra parte è sempre Galeazzi, lui è stato anche il grande cantore delle imprese della canoa azzurra, e quindi la coppia Rossi Bonomi ci sta benissimo, ci sta benissimo, direi. Senti, perché prima ci hai suggerito di toccare anche l'argomento del trattamento economico e del trattamento dei premi per gli atleti paralimpici? Sì, perché c'è questo dato numerico che va letto un po' interpretato anche sotto il profilo tecnico sportivo, perché abbiamo ricordato, per gli atleti, per i medagliati olimpici, premi 140.000 euro per l'oro, 75.000 per l'argento, 50.000 per il bronzo al netto della tassazione, esattamente la metà per gli atleti paralimpici, quindi 75.000 oro, 45.000 argento, un poco più della metà, e 25.000 il bronzo. Ora, anche tramite la rubrica a bordo campo ho ricevuto diverse mail in cui molti ascoltatori segnalavano questa come una sorta di ingiustizia, di una sperequazione non giustificata, appunto, soprattutto alla luce degli sforzi che fanno gli atleti paralimpici per arrivare sul podio olimpico. Allora abbiamo verificato la cosa chiaramente con i vertici del Comitato Paralimpico e del CONI e c'è stata anche data una motivazione tecnica, nel senso che in molte discipline paralimpiche, anche a Londra, in realtà il livello stesso della competizione non raggiunge ancora il grado di maturità tecnica da giustificare premi particolarmente rilevanti. Faccio un esempio concreto: in alcune gare del moto, ad esempio andando a Londra 2012, si accede direttamente alla finale, cosa che invece nell'ambito olimpico è di fatto impossibile. Allora, piuttosto che lo stesso Comitato Paralimpico, i vertici del Comitato Paralimpico ci hanno spiegato, piuttosto che un discorso buonista, che sappiamo quanto sia decisamente poco apprezzato dall'ambiente paralimpico, che portasse a un'equiparazione non giustificata sotto il profilo tecnico, si è preferito fare questo passo, comunque già molto importante, in attesa che il movimento in tutte le sue branche vada a poi a raggiungere una consapevolezza tecnica che poi giustifichi i premi più consistenti. Mm-hmm. Del resto il passo già fatto, ci spiegavano dal CIP, è già molto molto significativo e soprattutto si è voluto evitare qualsiasi accostamento, interpretazione, suggestione buonista che veramente... Che nell'ambiente, come dicevi tu, è assolutamente sgradita, ecco. Esattamente. Allora, Nicola Forte voleva commentare qualcosa relativamente a questo aspetto che abbiamo introdotto adesso, poi andremo anche ai commenti degli ascoltatori che sono tanti, pittoreschi e folcloristici su questo tema stamattina come sempre. Forte. Semplicemente che il livello di tassazione è pressoché analogo, perché anche i premi in denaro corrisposti appunto dal Comitato Paralimpico vengono di fatto assimilati a premi corrisposti da una società sportiva, anche in questo caso il Comitato equivale nella sostanza a una società sportiva e quindi il criterio di tassazione è esattamente quello che ho indicato precedentemente. Ripeto, probabilmente gli atleti non comprendono, non si rendono conto che la loro tassazione è migliore, perché sommandosi tutti i premi si raggiungono certi livelli. Immagino che piuttosto la loro preoccupazione in termini di tassazione eccessiva delle medaglie riguardi poi una ricollocazione nel mercato, chiamiamolo, del lavoro successivamente al termine della carriera agonistica, perché mentre torna in ballo sempre la solita disciplina, il calcio, la ricollocazione è più agevole e, se non altro, anche in termini economici è più vantaggiosa quando un atleta termina la sua carriera agonistica, che può essere tiro a volo, tennis tavolo, scherma, diciamo che mentre gli atleti militari hanno appunto un fisso, una retribuzione, quindi riescono a gestire il termine della carriera, qualche problema maggiore ce l'hanno gli altri atleti. Ecco aspetti ai quali magari anche chi fa i commenti più un po' all'insegna del disappunto sui premi di questi atleti, appunto, sono aspetti sicuramente ai quali spesso non si pensa. Allora, tra l'altro, a proposito di quella questione sollevata da un ascoltatore, Forte, non so se lei ne ha documentato o meno, ma appunto chi ottiene comunque una medaglia d'oro poi percepisce un vitalizio grazie a questa. C'è un ascoltatore che ci scrive: controllate bene, perché il padre di un mio amico, componente del Sette Bello Azzurro, medaglia d'oro di 50 anni fa, ha percepito un piccolo vitalizio. Peraltro, piccola parentesi, il Sette Bello, Dario Ricci è la squadra di pallanuoto, se non ricordo male. Sì, tra l'altro mito che nacque proprio a Londra, perché a Londra il Sette Bello conquistò l'oro con personaggi straordinari in acqua, uno su tutti, quel Cesare Rubini che parallelamente e successivamente divenne anche leggenda del basket italiano, tra l'altro uno dei pochissimi atleti ad essere nelle due Hall of Fame, sia della pallanuoto che del basket mondiale. Probabilmente, ma azzardo una ipotesi, il vitalizio cui allude l'ascoltatore potrebbe essere il vitalizio Onesti, che è istituito con legge apposita del 15 aprile del 2003, la numero 86, garantisce a quegli atleti che hanno dato particolare lustro allo sport italiano, ma che magari in questo momento attualmente si trovano in difficoltà economiche, garantisce appunto un vitalizio. Una sorta di bacchelli per gli artisti, qualcosa di paragonabile a quel trattamento. Esattamente, esattamente. Ah, poi ecco, per quanto riguarda Daniello, piccola annotazione, è un poliziotto. È un poliziotto. Quindi, ecco qua. Va bene, ottimo. Quindi. Allora, bravissimo Dario. Tra l'altro nello stesso tempo Laura Faggini mi aveva trovato tutti gli estremi della legge che ha istituito l'assegno straordinario vitalizio intitolato a Giulio Onesti, quindi abbiamo fatto proprio le cose in contemporanea. Ottimo, mi fa piacere. E intanto, ma ancora molti ascoltatori che ovviamente fanno tutti i paragoni del caso con gli ingaggi stramilionari dei calciatori, quanto prenderà da qui ai prossimi anni Ibrahimovic, Dario, tra l'altro, così tanto per infierire ancora un po'. Siamo a 12 milioni di euro l'anno per 3 anni, più i bonus dovrebbe arrivare a 14 e mezzo, quindi insomma diciamo che ha accettato di buon grado la sofferenza di trasferirsi a Parigi, perché tutto sommato qualcosa alla sera si trova da fare. Sì, ecco. Esatto, anche perché, come sottolineava il nostro assistente tecnico di oggi, Roberto Scaltriti, si tratta di 40.000 euro al giorno, per cui sicuramente avrà modo anche di spenderli, e visto che si troverà appunto in una vediamo città. Vediamo poi se Hollande li tasserà, perché il tema è aperto, e anche da questo punto di vista sembra che questa famosa aliquota del 75% sugli stipendi superiori al milione di euro dovrebbe essere derogata proprio ad artisti e sportivi, mentre invece dovrebbe colpire i lavori più strutturali come quelli di manager. Nicola Forti, il contributo d'oro sui redditi alti, mi pare che anche in Italia i calciatori l'avessero presa questa storia con un po' di difficoltà. Certo, è stata una polemica estiva, ma sostanzialmente proprio Ibrahimovic aveva posto la questione, si era, diciamo, possiamo dire, ribellato, ma il problema in realtà aveva anche un fondamento giuridico, perché in realtà si è detto tanto, sono state fornite tante spiegazioni, ma la soluzione andava ricercata nell'accordo collettivo per quanto riguarda il contratto di lavoro dipendente, perché gli atleti, i giocatori professionisti sono lavoratori dipendenti. Ora, l'accordo collettivo allora siglato, ed è stata un'estate abbastanza tormentata perché si doveva rinnovare, era sottoposto al rinnovo, prevedeva per l'atleta la possibilità di trovare un accordo, fissare la retribuzione in base o all'ordo o al netto. È chiaro che se gli atleti avevano sfruttato, utilizzato quella possibilità, i procuratori si erano accordati con la società per stabilire il netto, qualsiasi aumento di imposte e quindi anche il contributo, qui poi si discuteva se questo contributo o meno avesse natura di imposta, ma diciamo che equivaleva, era nella sostanza IRPEF, semplificando molto, qualsiasi incremento di imposta, se io mi sono accordato per 1 milione di euro, 2, 3, 5 al netto delle imposte, questo effetto era un effetto negativo per le società che dovevano aumentare la retribuzione. Qualora invece l'atleta si fosse accordato sull'importo lordo, allora un aumento delle imposte non poteva che gravare sull'atleta. Infatti io auspicavo che in fase di rinnovo dell'accordo collettivo, se si fosse stato stabilito un principio secondo cui, in base al quale l'accordo era sull'ordo, a questo punto gli effetti negativi erano solo sugli atleti. Gli atleti italiani hanno sollevato nel 2008 a Pechino la questione dei premi percepiti, soprattutto della tassazione applicata, poi dopo quella polemica non è successo più nulla, per la verità chissà se quest'anno qualcun altro solleverà di nuovo il polverone sul tema. Intanto Alessandro su Facebook ci scrive: certo che vanno tassati i loro premi, e non solo perché non è il momento di concedere privilegi, le vittorie fruttano loro contratti pubblicitari e introiti di vario genere, quindi non vedo proprio perché dovrebbero ricevere ulteriori benefici oltre al fatto di essere già spesso stipendiati dallo Stato, come ricordavamo prima. Allora, che dovremmo fare? Pretendere di avere indietro gli stipendi pagati con le nostre tasse in caso di mancato raggiungimento di obiettivi minimi? Dario Ricci, che ne pensi? Ma guarda, devo dire che su questo aspetto eviterei facili moralismi, nel senso che sappiamo il lavoro che c'è dietro a una medaglia olimpica, sappiamo anche quello che poi è il ritorno d'immagine, sappiamo che anche questo ritorno e il peso specifico è determinato dal mercato. Quindi, posso anche aggiungere che sicuramente qualche volta l'immagine di un atleta, di uno sportivo, è molto migliore di quella di altri personaggi che possono pubblicizzare e rappresentare l'immagine di prodotti di qualunque tipo, come le starlette della televisione che si bruciano nel giro di una stagione e tanto altro. L'atleta rappresenta un esempio di tutt'altro genere. Su questo io vorrei proprio essere irremovibile stamattina. Ma direi di sì, e poi soprattutto diciamo chiederei di non gli chiederei di essere di esempio su tutto, insomma, cioè nel senso chiaramente il vincolo etico morale è assolutamente essenziale, ma insomma ci sono anche altre categorie, basta evocarle senza anche citarle, a cui siamo tenuti a chiedere anche esempi più stringenti di sobrietà e misura. Allora, sentiamo Francesco da Milano, che è un ascoltatore tra i tanti che ci hanno chiamato, ma che non riuscivo ad individuare una telefonata proprio esattamente a tema. Sentiamo Francesco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, io pensavo una cosa. Per quanto riguarda i calciatori, secondo me le società a livello europeo dovrebbero fare un bel cartello, mettersi d'accordo a costo di perdere un anno di campionati, ma stabilire dei tetti sul pagamento dei calciatori. Secondo me la spuntano loro, perché sono molto più forti dei calciatori, anche perché il giocatore bravo tenderà ad andare nella società forte. Poi il resto dei soldi se li facciano dare dagli sponsor. Vabbè, insomma, grazie Francesco per il suo contributo, anche se effettivamente, appunto, ribadisco, il tema di questa mattina era un altro. Tornerei alle questioni legate all'attività non professionale ma dilettantistica. Nicola Forte, un mondo popolato da tantissime persone che pratica sport di qualunque genere a vario titolo, e molto spesso chiaramente deve associarsi, tesserarsi alle organizzazioni, appunto, del settore a seconda dello sport che pratica. Naturalmente ci sono tanti anche atleti di rango, passatemi il termine, inferiore, che però fanno questo lavoro in via del tutto professionale. Qual è il limite fra le due realtà? Diciamo che dobbiamo distinguere l'aspetto tecnico sportivo rispetto a quello che è l'impegno, nel senso che, come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ovviamente per individuare i criteri di tassazione, si considera dilettantistica quell'attività o quelle attività in base alle regole proprie stabilite dalla federazione. Attualmente esistono pochissime federazioni che hanno istituito il settore professionistico, sono la federazione ciclistica, gioco calcio, golf, motociclistica, pallacanestro e pugilistica, ovviamente facendo delle distinzioni. Per esempio l'attività sportiva professionistica per quanto riguarda il calcio, solo i tesserati per società di A, B, C1 e C2. Però questo sotto il profilo sportivo e tecnico. Poi nella sostanza l'impegno e gli ingaggi sono frequentemente ben più elevati. Se noi pensiamo a tante discipline, la pallavolo, il tennis, diciamo il quantitativo di denaro e anche l'impegno, molto spesso allenamenti di 3, 4, 5 volte a settimana, sono impegni che in effetti corrispondono a un impegno di un atleta professionista. Però queste discipline, proprio per le regole stabilite dalle singole federazioni, sono ancora considerate appunto discipline dilettantistiche. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: che cosa ne pensa il vostro esperto di tutte le palestre che si qualificano come associazioni sportive dilettantistiche e quindi non pagano contributi ai dipendenti e pressoché nessuna imposta? Forte, è una realtà davvero così? Sì, è un terreno molto minato, bisogna verificare caso per caso, perché in alcuni casi non dobbiamo, è sempre sbagliato generalizzare. L'attività svolta dalla palestra può essere effettivamente un'attività sportiva svolta con tutti i crismi, con degli atleti tesserati, dove si praticano arti marziali, pesistiche e via discorrendo. Altre volte però dietro lo schermo della palestra si nasconde ben altro, cioè centri benessere, solarium e via discorrendo. Quindi e al di là dei profili formali, in concreto bisogna andare a verificare qual è l'attività che svolge la palestra, e se la svolge soprattutto con certe caratteristiche, perché voglio ricordare che una caratteristica essenziale delle società, associazioni sportive dilettantistiche è la mancanza di uno scopo di lucro, quindi non possono essere in alcun modo essere distribuiti utili. La società sportiva, l'associazione deve essere iscritta, affiliata a una federazione riconosciuta dal CONI o a un ente di promozione sportiva, ed è importante che sia iscritta in un apposito registro gestito appositamente dal CONI, che rilascia un attestato. Carlo da Bari, l'ultimo contributo di oggi, se ce la fa velocissimo. Carlo, buongiorno. Buongiorno, sì, cerco di essere sintetico il più possibile. Per me il problema è alla base, nel senso che non possono essere definiti dilettanti degli atleti che arrivano alle Olimpiadi. Sono dei professionisti, non gli manca assolutamente nulla. Si allenano, faticano, lavorano tanto quanto i colleghi professionisti. Quindi è assurdo, così come nel ciclismo, ad esempio, dove si passa dalla categoria dilettanti a professionisti. I dilettanti sono dei ragazzi entro i 25 anni che devono lavorare, faticare proprio per il salto di categoria più dei professionisti. Quindi è assurdo ritenerli dilettanti. È un po' da rivedere alla base. E certo, quindi Carlo, insomma, lei propone una revisione integrale della materia che non parta solamente dalla revisione verso l'alto dei premi o verso il basso della tassazione. Grazie a tutti, noi stiamo chiudendo. 10 secondi a Dario Ricci. Quando parti, Dario? Si parte il 25 e da quel giorno in poi saremo praticamente sempre in diretta da Londra per raccontarvi esatto. Le Olimpiadi. Senti in Radio 24 Style. Detto che naturalmente ti faremo per tutti gli atleti italiani indistintamente, ma tu hai qualche preferenza? Ma chiaramente Federica Pellegrini, Valentina Vezzali sono i grandi nomi, ma poi soprattutto i piccoli. Allora, Niccolò Campiani nel tiro a segno, la nazionale di tiro a volo, perché ci permetteranno anche di scoprire sport che abitualmente frequentiamo poco. Benissimo, grazie molte Dario, buon grazie lavoro e grazie anche a Nicola Forte per essere stati con noi, a Laura Fagin per il lavoro nefatto per questa puntata, Roberto Scaltritti, grande appassionato di calcio, per quello che mi riguarda io vado nella mia palestra. Buona giornata a tutti.